Buonasera, bentrovati a tutte e tutte sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Un abbraccio particolare a chi ci segue dal carcere. Questa è Entropia Massima, la trasmissione del lunedì sera che vi tiene compagnia da 17 anni su queste frequenze. Stasera puntata dedicata alla tecnologia, parliamo di 5G. Torniamo a parlarne dopo una puntata di qualche mese fa in cui abbiamo invitato un gruppo che si è formato, un gruppo di studio che si è formato nella Sabina e che sta cercando di conoscere un po' meglio questa tecnologia, che è davvero molto complessa, molto più di quello che possiamo immaginare, e che quindi vorrei stasera diciamo spiegare un pochino meglio. Innanzitutto, 5G venendo dopo 2G, 3G, 4G, ci si potrebbe aspettare che si tratta di una semplice evoluzione tecnologica volta a una maggiore efficienza. Infatti sappiamo che possiamo andare a 10-100 gigabit al secondo, che è una velocità veramente notevole, ma non è solo questo il problema. Come vedremo questa sera, in realtà la tecnologia abbraccia molto più che solo il networking, la rete, e si spinge sulle infrastrutture IT e fino ad arrivare alle applicazioni all'utente finale. Un'altra caratteristica molto interessante di questa tecnologia è che non si parla solo di telefonia personale, ma si parla anche di oggetti intelligenti, la famosa Internet delle cose, la Internet of Things, IoT al secolo. E intorno al 5G c'è una vera e propria piattaforma che abilita una grande varietà di servizi detti verticali. Facciamo alcuni esempi di applicazioni: controllo real time dei robot industriali, veicoli autonomi, droni, operazioni chirurgiche a distanza, diagnosi a distanza. Ecco, come vedete, abbracciano tanti domini applicativi, quindi tante applicazioni concrete, e quindi se ne parla perché la piattaforma è pensata fin dall'inizio per ospitare questo tipo di applicazioni. Quindi c'è una internet per le persone, e allora c'è EMBB, Enhanced Mobile Broadband, e una internet per le cose, MMTC, Massive Machine Type Communication, quindi per gli oggetti, no? Fino ad arrivare alla Critical IoT, che dà una alta affidabilità e bassissima latenza, quindi la URLLC, Ultra Reliable and Low Latency Communication, si arriva a latenze inferiori al millisecondo. Ora, è importante dirci questo: non stiamo parlando solo di prestazioni di una rete, stiamo parlando di risultati di latenza end to end, come si dice, estremo a estremo, cioè dal momento in cui parte la richiesta al momento in cui la richiesta viene diciamo soddisfatta a livello applicativo, quindi dal momento in cui premiamo il pulsante al momento in cui l'azione viene verificata. E come fa un sistema del genere a garantirci un simile livello di servizio se si rivolge solo alla rete? E infatti non si rivolge solo alla rete, si rivolge anche alle applicazioni, è centrata sulle applicazioni. Ora facciamo un analogo, perché stiamo parlando di cose piuttosto complesse per i non addetti ai lavori. L'analogia è con un sistema ferroviario e delle stazioni, e diciamo che le persone che si muovono sono i dati. Metafora peraltro tutt'altro che bizzarra, no? Sappiamo molto che il valore delle persone viene sempre più stimato in funzione dei dati che queste persone producono, no? Quasi fossero animali da dati, da cui mungere dati. Bene, quindi dicevamo dell'analogia: le persone si spostano, i dati, c'è necessità di spostare questi dati da una parte all'altra, quindi mi muovo su una rete ferroviaria e mi muovo all'interno dei treni. I treni sono i pacchetti di dati, i dati vengono stipati dentro i treni e proseguono sulla ferrovia. Questa ferrovia può portarci in varie stazioni, ma ovviamente ci sono stazioni più grandi e stazioni più piccole, e c'è necessità di fare degli scambi ferroviari, quindi di cambiare il percorso in tempo reale mano a mano che i treni passano, per smistarli sulle varie destinazioni e farli arrivare dove servono. Ecco, con questa analogia noi potremmo dire che una prestazione end to end non è la prestazione che si ha per andare da Roma a Milano solamente, ma è proprio per andare da casa nostra a Roma all'ufficio a Milano dove devo andare a lavorare, e quindi comprensivo di L'ascensore che prendo per scendere, il mezzo che prendo per recarmi alla stazione, poi la tratta ferroviaria, arrivo a Milano e il nuovo mezzo che prendo, autobus, taxi, quello che serve, per arrivare al luogo di lavoro e poi nuovamente l'ascensore per salire al piano dove lavoro. Questo significa end-to-end, cioè mi stanno dicendo che mi garantiscono delle prestazioni da dentro casa mia a dentro l'ufficio dove devo arrivare. E come fanno a fare questo? Devono coordinare quindi non solo la ferrovia e quindi fare delle ferrovie molto efficienti come è stato fatto finora, no? Ma devono anche coordinare per esempio il modo in cui queste ferrovie cambiano topologia, quindi gli scambi che queste ferrovie possono effettuare. Devono coordinare anche un'altra cosa: mano a mano che arrivo nelle stazioni, il dato deve essere trattato, quindi immaginiamo queste persone che arrivano nelle stazioni e c'è bisogno di qualcuno che faccia delle operazioni su queste persone, le vesta, le trucca, gli metta delle parrucche. Ecco, questa è un po' un'analogia bizzarra, ma per intenderci. E immaginiamo che dentro le stazioni ci siano dei macchinari che prendono queste persone e cominciano a cambiarle vestendole, tagliandole i capelli, pitturando i capelli o quant'altro, facendo alcune cose su queste persone. Questa è l'elaborazione dei dati, fino a che poi il dato viene accompagnato a destinazione, no? E quindi noi in questo stiamo vedendo sostanzialmente che cosa? Che ci sono tre elementi che costituiscono un po' il gioco. Uno l'abbiamo citato, la ferrovia, quindi l'elemento del networking, ciò che crea la rete. Il secondo sono le stazioni, quindi i luoghi dove avviene l'elaborazione del dato. Ok? Ci sono delle macchine che fanno delle elaborazioni su dei dati. Questo avviene in determinate stazioni. Per esempio, queste stazioni sono dei data center, dei luoghi dove ci sono dei computer dentro i quali i dati arrivano, che compiono delle operazioni su questi dati. E infine, la terza caratteristica, diciamo, delle infrastrutture IT comprende lo storage, cioè dei luoghi atti a contenere i dati, quindi degli hard disk, no? Diciamo così, dei dischi, dei posti dove questi dati possono essere stipati. Quindi se è una stazione grande ci posso mettere tante persone, ma non solo, all'interno della stazione devo fare tante aree diverse per le persone, e quindi c'è il bagno, c'è il bar, un tempo c'era la sala d'aspetto, adesso c'è la libreria Feltrinelli, ci sono una serie di cose all'interno delle stazioni che creano lo spazio. Quindi ho networking, storage e infine elaborazione, perché dopo aver messo in immagazzinamento, dopo aver messo in storage le persone, i dati, nell'analogia, le devo prendere ed elaborare, quindi ho bisogno di potenza di calcolo e quindi di CPU, di processori, di processamento di questi dati. Ecco, tutto questo, tutta questa analogia ci porta a parlare di cloud computing, perché il 5G prende in considerazione il cloud computing, senza il quale non potrebbe esistere. Che cos'è il cloud computing? È la virtualizzazione delle funzioni che sono appannaggio dell'infrastruttura. Quindi io ho un'infrastruttura che ha le reti, lo storage, l'elaborazione dei dati fisico, quindi parliamo di hardware fisico. Grazie al cloud io prendo questo hardware, lo metto tutto insieme, uno vicino all'altro, non importa quello che fa, non importa se sia diverso uno dall'altro, più grande, più piccolo, di una marca, di un'altra marca, non mi interessa, butto tutto insieme ed effettuo sopra questo hardware una trasformazione con il software, tale per cui queste risorse iniziali diventano gestibili come se fossero degli oggetti software, quindi virtuali. Ed ecco quindi che ho i data center, stazioni più grandi dove avvengono cose più complesse, ho dei point of presence di rete, stazioni più piccole, magari addette solamente allo smistamento delle persone in altri luoghi. Ciò quindi la possibilità di gestire come deve essere fatta la rete, come devono essere fatte gli storage, come devono essere fatte le elaborazioni in tempo reale grazie al software. Quindi ho questo sistema centralizzato di orchestrazione di queste risorse che si chiama MANO, perché fa management e orchestration, quindi gestione e orchestrazione. C'ho questo concetto dell'agile che si ritrova spesso, no? nelle moderne infrastrutture, nelle moderne architetture IT, e quindi con grande velocità io creo dei nuovi servizi, scalo dei grossi volumi di traffico. Come faccio? Beh, io devo poter, nella nostra analogia, spostare le ferrovie da un luogo all'altro. Mettiamo che devo andare da Roma a Bologna, cioè la mia alta velocità, però se un giorno devo andare da Roma a Ancona, come faccio? Devo ricostruire un'alta velocità? No, si può fare tutto in automatico perché è software, si spostano le risorse in modo tale che si dà più spazio no, si crea diciamo, una ferrovia più potente che fa un Roma-Ancona velocemente, magari togliendo temporaneamente parte della banda passante a quella che va da Roma a Bologna. Ed ecco che io arrivo a Roma, arrivo ad Ancona rapidamente. Questo è agile, cioè creazione al volo, on the fly, di nuovi percorsi di rete, no? Che prima sarebbe stato impensabile fare, cioè ci sarebbe voluto molto più tempo. Quindi la parola chiave, una delle parole chiavi è automazione, un'altra parola chiave è agilità, e quindi. Appunto, scalabilità è l'altra parola chiave. Perché devo poter andare velocemente da una parte all'altra? Perché magari i volumi di traffico cambiano rapidamente nel tempo. Per quali motivi? Per motivi esterni, non predicibili. Quindi è inutile che facciamo un dimensionamento di tipo ingegneristico, no? Proviamo a dire come devono essere dimensionati quelle tratte, come devono essere dimensionate quelle stazioni, come devono essere dimensionate quei macchinari che all'interno delle stazioni truccano e vessano le persone. Non lo posso sapere a priori, non lo so, questa cosa non la so a priori, ok? Quindi devo poterla modificare mano a mano che succede. Ecco, tutto questo si chiama Network Function Virtualization, cioè virtualizzazione delle funzioni di rete, che riesce a realizzare quella che si chiama una SBA, una Service Based Architecture, un'architettura basata sui servizi, quindi delle reti logiche multiple, che sono come possiamo immaginarle come delle fette virtuali di rete, che sono fatte apposta per il determinato servizio. Ed ecco che io arrivo alla nozione di servizio, cioè tutto questo gigantesco sistema, no? Questo complessissimo sistema con cui io vado a razionalizzare e gestire tutte le risorse di networking e di elaborazione, alla fine mi serve perché ha servito alla creazione di un servizio verticale. E come faccio ad accedere a questo, diciamo, a questa rete? Beh, ci sono delle interfacce di accesso, che ovviamente è il luogo delle onde millimetriche, come vedremo poi nella seconda parte della trasmissione, no? Ci sono delle onde elettromagnetiche, 30, 40, 60, 80 GHz, quello che è, diciamo, e si possono allocare fino a 30 gigabit al secondo. Vabbè, questo è l'accesso. Ma non basta accedere a un sistema del genere. Se io voglio creare delle funzioni, delle applicazioni, io ho bisogno anche di dialogare con il sistema che gestisce la creazione di questi servizi e di queste applicazioni. Ed ecco allora che io devo preoccuparmi anche di fare della segnalazione, cioè devo poter entrare nelle funzioni di virtualizzazione della rete e in base alla mia autenticazione, quindi io entro dentro questa rete, ho un mio profilo, attivo un mio profilo e quindi in base a questo profilo, in base a quello che c'è scritto nel database dove sono conservate le cose che posso fare, no? Io entro dentro con il mio profilo, lui c'è scritto questo può fare questo, questo e quest'altro. In base a questa cosa dice vabbè, allora creami una rete che fa così, che mi porta al traffico di là, poi di là mi metti un'elaborazione che fa cos'ha e infine poi mi arrivi di lì con l'applicazione che mi fa quest'altra cosa. Tutto questo io lo posso fare a vari livelli di autorizzazione e lo posso fare perché riesco a segnalare, no? Si riesco a segnalare fuori banda, si dice, quindi al di fuori di quella che è la banda proprio per portare i dati, quindi è come se ci fosse le ferrovie che trasportano i dati e poi a fianco alle ferrovie c'è un sistema parallelo, mettiamo che sia quello elettrico, no? Nella nostra analogia, questo cavo elettrico che passa sopra le ferrovie che è fuori banda, cioè non serve diciamo, a realizzare il servizio di trasporto dei dati. Fuori banda, io su questo cavo elettrico mando dei segnali, li mando, questi segnali arrivano nei punti di controllo e grazie a questo io riesco a realizzare delle astrazioni molto complesse, delle architetture molto complesse. Ecco, quindi siamo quindi arrivati al concetto di network slice, cioè di fetta di rete, una rete che viene affettata per uno specifico servizio. Ovviamente poi c'è tutta la parte dei servizi applicativi che sta fuori dalla rete e sono quelli che si servono di queste fette di rete virtuali, no? Però la cosa che abbiamo capito è che appunto ci sono queste risorse logiche che vengono attivate. Da chi vengono attivate? Possono essere attivate dai terminali, cioè dai terminali che hanno in mano le persone, oppure anche dai sensori IoT. perché abbiamo detto che anche questi sensori si possono unire a questa rete. E quindi sessione per sessione, ogni volta che entro dentro questa rete, attivo queste fette virtuali e che sono associate a determinate risorse logiche. Ecco, quindi c'è tutto un tema di orchestrazione di queste risorse logiche che insomma avviene in base a quelli che sono i requisiti delle applicazioni. Ma quali sono, diciamo, le cose che può fare un orchestratore 5G? Beh, abbiamo detto già accesso radio, e questo l'abbiamo capito, il modo in cui accedo, trasporto, e pure questo l'abbiamo capito. Sicurezza, anche la sicurezza, ci sono funzioni di sicurezza che garantiscono, diciamo design, come si dice, quindi già è previsto che sia così, che garantiscono la sicurezza del trasporto dei dati su questa rete. Poi c'è il computing, l'elaborazione, quella che avviene nelle stazioni, no? Quella che trucca le persone, le veste, prima di consegnarle a destinazione. E poi c'è lo storage, appunto, i luoghi dove questi dati devono essere conservati per poter essere elaborati prima, dopo, durante o quello che serve, insomma. Ok, e tutta questa roba qui, quindi, non solo viene orchestrata nel core della network, quindi all'interno di quella che è la rete, no, nel suo nocciolo, ma anche nei terminali e nei sensori, quindi l'orchestrazione è totale. Ecco, io direi che per adesso possiamo fermarci un attimo, riflettere, e vi faccio ascoltare un pezzo e ci sentiamo poi subito dopo la pausa per riprendere il discorso. We'll be right back. Questa era Weapons of Choice, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo a Entropia Massima, stiamo parlando di 5G. Durante la prima parte di trasmissione abbiamo capito che si tratta di una tecnologia completamente diversa dai suoi predecessori, che non ha solo a che fare con la rete, wireless, non ha quindi solo a che fare con le onde elettromagnetiche, ha a che fare con tante altre componenti dell'IT e quindi ha a che fare con l'elaborazione e ha a che fare con lo storage. Queste sono le tre risorse fondamentali: storage, elaborazione, networking. Networking abbiamo detto, l'abbiamo descritto come le ferrovie, quindi questi sistemi di scambio, switching, no? Attraverso i quali io posso muovere i pacchetti di dati, i treni con le persone, sopra questa rete, farla arrivare da qualche parte. Lo storage è evidente, sono i luoghi dove le persone sono stipate, i dati sono stipati. La CPU è l'elaborazione. Queste sono le funzioni. Queste funzioni, grazie al cloud computing, vengono astratte, cioè vengono trattate non più come se fossero hardware, ma come se fossero software. Questa caratteristica fa sì che si possano realizzare rapidamente, velocemente, tante applicazioni e soprattutto tenere conto del carico di queste applicazioni on the fly, al volo, mano a mano che esso cambia nel tempo. Tutte queste funzionalità, abbiamo anche detto, sono contenute sia nel nucleo della rete, cioè dentro la rete dove le cose avvengono, ma anche ai bordi della rete, ok? Quindi nella nostra analogia, fino a dentro casa nostra, fino all'ascensore che ci porta da casa a giù, fino al taxi che ci porta da giù casa alla stazione, e tutto il resto, fino poi arrivati a destinazione, l'autobus che prendo, eccetera, eccetera. Ovunque, queste tre componenti sono orchestrate da questa nuova tecnologia. Perché è necessario che questo avvenga? Perché questa tecnologia ci garantisce prestazioni end to end, da estremo a estremo, da dentro casa a dentro, da dentro al luogo dove parto, a dentro al luogo dove arrivo, comprese tutte le cose che nel frattempo faccio. E quindi non solo nel nucleo della rete, non solo sulla ferrovia e sulle stazioni, ma anche dentro casa mia, dentro l'ascensore, dentro gli autobus, dentro i taxi, c'è gestione, quindi a livello cloud. E come si chiama questo nel gergo? Si chiama edge computing, cioè quando la computazione arriva fino agli estremi, no? Fino agli estremi, quindi non solo nella parte interna della rete, ma anche nei terminali che noi abbiamo in mano o negli oggetti che sono connessi a questa rete, gli oggetti intelligenti, gli smart objects, e nelle base station, le stazioni base, quelle a cui noi, quando usiamo normalmente un cellulare, dobbiamo registrarci presso una stazione base. Poi da quella stazione base la nostra voce, i nostri dati arrivano dove devono arrivare. Ebbene, questa è la parte edge, la parte estrema. Anche questa parte è inclusa all'interno del protocollo, dei tanti protocolli 5G. Abbiamo anche visto appunto il concetto di fetta di rete. Questa fetta di rete quindi è come una fetta di rete virtuale, un percorso virtuale comprensivo quindi anche di elaborazione di tutto ciò che serve per far funzionare le applicazioni. Questa fetta viene dedicata a dei servizi. Che servizi possono essere? Beh, abbiamo citato i servizi, quelli appunto all'utente finale, quelli verso i dispositivi, anche quelli ad altissima affidabilità, e quindi c'è pure un discorso di diverse prestazioni, no? Quindi chiaramente un discorso commerciale, no? Associato alle diverse prestazioni che posso avere, ma di più, si dice che questi possono essere gli utilizzatori di queste fette di rete, i mercati verticali, e si citano proprio questi mercati: media, sanità, energia, trasporti, manifattura, utilities, quindi le cose che ti arrivano a casa, energia elettrica, no? Acqua, gas, agricoltura, ambiente e retail, quindi anche il discorso dei negozi, no? della rivendita. Tutti questi mercati sono quelli che possono usare questi pezzi di rete che vengono creati apposta per loro e per le loro applicazioni. Poi ovviamente ci sono i clienti business che si possono fare delle reti aziendali virtuali. Ok, un tempo uno per farsi una rete all'interno di un ufficio si doveva fare tutto quanto, quello che serviva, doveva calare i cavi, mettere gli apparati e quant'altro. Adesso sarà possibile creare delle reti aziendali virtuali direttamente usando questa tecnologia. Servizi per la pubblica amministrazione, ok, come se piovessero ovviamente, e poi sorveglianza e sistemi di emergenza. Capite quanto è impattante questo tipo di tecnologia? Capite che raggio d'azione c'ha? Tutti questi oggetti un tempo erano separati dal discorso rete, no? Uno dice, vabbè, io intanto ti faccio la rete, poi tu ci farai qualcosa sopra. Invece adesso è proprio previsto fin dall'inizio che se vuoi fare sorveglianza, emergenza, se vuoi fare agricoltura, se vuoi fare manifattura, tu ti devi segnare, diciamo, in questo diciamo, sistema, e devi ottenere dei pezzi di rete che ti serviranno per fare le cose che devi fare. Come si fa poi nello specifico nella fisicità? Che cosa avviene nella fisicità? Beh, abbiamo detto nella puntata precedente di Radio di Entropia Massima, in cui abbiamo parlato di questo, ci sono fondamentalmente tre tipi di frequenze che sono interessate al 5G. La banda a 700 MHz, la banda che va da 3,6 a 3,8 GHz e la banda che va da 26,5 a 27,5 GHz. E poi si parla anche di impiego di frequenze molto più ampie, fino ad arrivare addirittura agli 86 GHz. Abbiamo detto che queste bande di frequenze sono ovviamente tutte bande, diciamo così, di campi elettromagnetici non ionizzanti, cioè che non hanno la capacità di mutare la materia, ok? Almeno non direttamente. Quindi sono tutte qua le prime, andando sempre più verso onde a frequenza maggiore, poi si deve arrivare agli ultravioletti per cominciare ad avere delle onde che modificano la materia, no? Che hanno la capacità proprio di modificare la materia. Quindi quelle sono dette ionizzanti, proprio si sa, quelle si sa che modificano la materia. Invece queste si dice che non modificano la materia, non lo modificano direttamente. E quindi c'è tutto il problema dell'elettrosmog. Benissimo, questo l'abbiamo detto, no? È uno dei temi, e vabbè, riprendiamo questo discorso. Calato nella realtà del 5G. Abbiamo detto i 700 MHz. I 700 MHz hanno una maggiore penetrazione, quindi riescono, diciamo, ad andare lontane e a superare più facilmente gli ostacoli. Sono quindi molto ideali per la internet delle cose, per gli smart objects, gli oggetti intelligenti che dicevamo prima. Quindi hanno una diffusione capillare. Questi sono stati assegnati, c'è stato un bando in Italia, è stato vinto da Vodafone, TIM e Iliad. Questa prima banda di frequenze, 700 MHz, un pochino più basse, diciamo, no? Sono un pochino più basse le frequenze e l'onde un pochino più lunghe, che entrano un po' di più. Poi ci sono la seconda categoria, le frequenze a 3,6 MHz. 3,6 GHz, perdonate, queste frequenze sono maggiori di quelle del wireless, che è 2,4, no? Per chi lo sa, quindi ancora maggiori. E qui già abbiamo detto che già a livello di wireless tradizionale, con 2,4 GHz già abbiamo la capacità di far vibrare la molecola dell'acqua, no? H2O, i due idrogeni e i due braccetti che si muovono, no? E quindi quella lì comincia a vibrare. Quindi già c'è un primo problema, ci avviciniamo verso, siamo nelle microonde, siamo nelle cosiddette microonde, no? E queste frequenze di seconda specie, quindi 3,6, ancora maggiore del 2,4, per che cosa si usano? Si usano per connessioni fixed wireless access, si dice, cioè si utilizzano, diciamo, in quelle zone a bassa densità, quindi meno raggiungibili, per realizzare dei collegamenti laddove non ci sono collegamenti con wired, cioè cablati con il filo, no? Quindi si tratta di connessioni a banda larga o ultra larga, e i dati viaggiano su onde radio in maniera molto simile a quello che avviene con i cellulari, con le connessioni cellulari, però a frequenze leggermente più alte. Però questo è come senso, ed è una evoluzione appunto delle wireless LAN, no? Cioè quindi delle reti locali realizzate con tecnologia wireless, no? Tra diversi edifici, e quindi va, diciamo, a sostituire la connessione fissa a internet. In Italia hanno cominciato a sperimentare queste frequenze in 5 città pilota, va bene, Bari, Matera, Aquila, Prato e Milano, e va bene. Terza categoria di frequenze, se vogliamo, è quella che sta un pochino più interessando, no? Chi si occupa di salute, sono connesse a queste tematiche, sono quindi le frequenze 24,5, 27,5 GHz, molto molto alte queste frequenze, molto molto alte. Le onde sono molto molto piccole, sono onde millimetriche, e quindi sono onde caratterizzate da un'elevata attenuazione. Quindi quando si propagano queste onde si attenuano, e se io ho necessità di farle arrivare lontano non ho altra possibilità che ripeterle tante volte, e quindi ho delle coperture limitate, E questa cosa qui, questa caratteristica, diciamo, mi consente diciamo, di utilizzare questo tipo di frequenze per reti di connessione uomo-uomo, uomo-macchina o macchina-macchina, e posso quindi avere numerosi impianti installati sul territorio proprio in virtù del fatto che devo ripetere. Ok, quindi queste sono le onde millimetriche. Perché sono così importanti? Perché siccome io devo mandare il problema qua, per come l'ho descritto, si capisce che stiamo parlando di una quantità enorme di dati, ok? Ma proprio tanti ordini di grandezza in più di quella del 4G. Quindi, come faccio, se non utilizzando anche onde come queste che mi garantiscono quindi delle prestazioni maggiori? Non posso farlo. Il problema è che queste onde hanno la difficoltà a entrare dentro i materiali solidi, dentro la materia, e quindi appunto le devo ripetere ogni 100 metri. Quindi sono stazioni base molto più diffuse, molto più capillari. Quindi le stazioni base ed i dispositivi devono avere queste antenne speciali dette fase ad array, array a fase, array a fasi, che lavorano insieme ed emettono dei fasci focalizzati, orientabili tipo laser, che si rintracciano a vicenda. Ogni telefono 5G potrà avere ordine delle decine di minuscole antenne, quindi dentro ogni dispositivo ci saranno alcune decine di queste minuscole antenne, tutte funzionanti insieme per tracciare e per puntare questi fasci focalizzati sulla torre più vicina, quindi sulla stazione più vicina, e vi do anche quello che ha fatto la Federal Communication Commission negli Stati Uniti. Ha adottato delle regole per consentire una potenza di tali fasci fino a 20 watt, cioè 10 volte più potenti dei livelli consentiti per i telefoni attuali, cioè 2 watt. Quindi già siamo a 10 volte di più la potenza, no? Che viene consentita, è stata aumentata la legge, no? La tolleranza di legge. Vediamo la stazione base. La stazione base ci avrà invece che decine, centinaia o migliaia di queste piccole antenne che fanno sempre questi raggi, ok? E questi raggi si devono collegare ad altre stazioni base o anche ai telefoni cellulari e dispositivi dell'utente che si trovano nell'area di servizio di questa stazione base. E questa tecnologia si chiama Multiple Input, Multiple Output, MIMO. Ok, le regole sempre dello stesso ente, la FCC, la Federal Communication Commission negli Stati Uniti, consentono che la potenza irradiata da questi fasci sia pari a 30.000 watt per i 100 MHz di spettro o 300.000 watt, se vogliamo equivalentemente, per gigahertz di spettro. Quindi siamo dalle decine alle centinaia di volte più potente dei livelli che attualmente sono consentiti per le stazioni radio base, radio base. Poi c'è un'altra cosa ancora, c'è lo spazio. Ci sono già un certo numero di compagnie, almeno 5, che stanno proponendo di fornire 5G dallo spazio, quindi 20.000 satelliti. C'è un progetto che parla di 20.000 satelliti in orbita bassa e media della Terra, che quindi vanno a coprire con questi fasci focalizzati e orientabili zone della Terra anche molto scoperte, quindi zone meno raggiungibili, zone desertiche, boschive, quello che serve, no? Quindi ogni satellite emetterà queste onde millimetriche, la potenza ovviamente nel satellite sarà 5 milioni di watt, è normale sia così, stai in orbita, per cui poi quella si attenua, no? Ovviamente questi 5 milioni di watt poi entrando dentro l'atmosfera e fino ad arrivare a terra si va ad attenuare. Però questa è la potenza, quindi stiamo parlando di potenze veramente molto importanti. Però sempre si fa con queste antenne in fase ad array, stesso tipo di logica. E quindi questo va a raggiungere dei trasmettitori che sono presenti sulla Terra e si potrebbero utilizzare per appunto questi smart object, questi oggetti intelligenti che stanno a terra. Naturalmente, uno dice: sì, è vero, a terra arriva che la potenza è decresciuta, però nel frattempo, prima di arrivare a terra, ci sarà dovuto passare nella magnetosfera terrestre, ad esempio, no? Quindi ci potrebbe essere anche un effetto collaterale. No, in quella parte dell'atmosfera. Cioè, stiamo entrando in un discorso un pochino, diciamo, delicato, molto delicato, no? E allora, naturalmente, c'è chi dice che appunto bisogna tenere in considerazione gli effetti, non solo quelli termici, cioè quelli che riscaldano, no? Il famoso effetto termico, quindi c'è un riscaldamento oggettivo delle superfici no, che vengono in contatto con queste onde, ma anche quelli non termici, c'è chi parla anche di genotossicità, cioè del fatto che queste radiazioni abbiano la capacità addirittura di modificare, se non il DNA, i filamenti, quindi anche la capacità stessa che hanno le cellule di riprodursi dopo eventi incidentali. Sono degli studi, sono degli studi, non, nessuno dice che siano corretti, diciamo che c'è un dibattito scientifico in corso e noi però lo ascoltiamo volentieri. Io poi personalmente di questo proprio non sono esperto minimamente, per cui non mi permetto assolutamente di dire niente. Si parla di elettrosensibilità, quindi c'è tutta una serie di effetti collaterali che possono avere, insomma, le persone: prurito, bruciori, arrossamento, sintomi allergici, insonnia, irritabilità. Ci sta che questa cosa diciamo sia stata notata, ma questo è stato notato sempre, questo è stato notato anche per il 4G, per il 3G, per il 2G, questo c'è sempre, e questo o per il wireless, no? che si trova diciamo nelle nostre case spesso e volentieri, no? Quindi non c'è niente di nuovo. Poi io non entro nello specifico, non in questa circostanza, ci ripromettiamo di farlo con persone più esperte in una circostanza futura. Però mi limito ad osservare che un impianto di questo genere, così come l'abbiamo descritto, cioè da un punto di vista esclusivamente ingegneristico, aumenta l'efficienza nell'uso degli spazi intorno a noi, cioè gli spazi intorno a noi sono utilizzati in maniera più fitta, più densa, vengono riempiti questi spazi, no? C'è questa tendenza a riempire questi spazi di onde, ok? E poi fra l'altro una per ogni applicazione, ci sono addirittura tre tipologie, no? C'è questa voglia di utilizzare frequenze diverse per applicazioni diverse, con protocolli diversi, c'è questo discorso dell'affettamento della rete, quindi c'è proprio capillare, no? C'è proprio capillare il modo in cui si va a riempire gli spazi intorno a noi di queste onde. Le onde possono appunto essere diversificate in base all'applicazione, e poi dobbiamo essere sicuri che queste applicazioni funzionano. Quindi quanto devono funzionare? Sempre vuol dire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assolutamente. E come devono funzionare? Bene, devono funzionare bene, quindi devono funzionare costantemente al meglio, al top delle prestazioni, addirittura mi garantiscono le prestazioni end to end, estremo a estremo, me le garantiscono, quindi se me le garantiscono devo fare in modo che funzioni, e per fare in modo che funzionano devo zeppare di onde tutti gli spazi, perché non devo lasciare nulla al caso, devo crearmi una infrastruttura sottostante che regga una simile richiesta di prestazioni. Devo evitare che ci siano dei fuori servizi di queste applicazioni, quindi insomma. Quindi io diciamo non vorrei fare un discorso sulla pericolosità del 5G in quanto alle onde e basta, no? Cioè che tipo di onde sono, fanno male, ma quanti gigahertz sono, ma no, questo secondo me è marginale. Diciamo così, facciamo un'ipotesi, diciamo che non sono più nocive del 4G, okay? Ok? Diciamo che non lo sono, facciamo questa ipotesi. Ma non basta, cioè non è questo il punto, a mio avviso, no? Non è questa la cosa importante. Importante sono gli scenari applicativi che si aprono con questa nuova tecnologia. Cioè si dà il via a un moltiplicarsi di applicazioni che farà in modo che le onde elettromagnetiche saranno sempre più presenti intorno a noi, nelle nostre case, nei luoghi dove viviamo. Quindi ammesso e non concesso che il 5G come banda di frequenze sia uguale in nocività al 4G, se aumenta la quantità di onde, e sicuramente aumenterà drasticamente, ok, l'effetto finale quale sarà? Questo diciamo, è abbastanza scontato dirlo, no? Anche perché non è solo una questione di dati che si trasmettono, che aumenta il numero di dati che trasmette, ma con tutto quello che abbiamo descritto finora si è visto che devo anche fare delle segnalazioni importanti, cioè devo creare on the fly situazioni per far girare questi dati e farli arrivare quindi a destinazione opportunamente diciamo elaborati, e queste diciamo l'infrastruttura di supporto a queste elaborazioni complessive, io la costruisco con tanto overhead, come si dice, no? Cioè con tanto messaggi che non sono. Non hanno dei contenuti informativi, ma servono a segnalare, cioè servono a dire al sistema come comportarsi per fare le diverse cose. E questi sono tanti, è tanta roba. In più poi abbiamo il fatto che non solo gli esseri umani, ma anche le macchine si uniscono, no? Abbiamo visto tutte le applicazioni industriali, degli smart objects. Quindi quelli sono tanti altri soggetti, sono miliardi di soggetti umani e non umani che si connettono e producono dati. Cioè, io rifletterei più su questo. Ecco, facciamo un'altra pausa musicale e ci rivediamo subito dopo per la parte finale. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to lose. For Fears, torniamo in diretta. Siamo a Entropia Massima. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo parlando di 5G. Abbiamo visto che ci sono dei dubbi sull'eventuale nocività di uno scenario in cui il 5G prenda davvero piede, dovuti soprattutto all'intensificazione. Proprio delle onde elettromagnetiche, no? Dei campi elettromagnetici che si vanno a costruire, che si vanno a costruire intorno a noi, nei nostri spazi, sul pianeta Terra. Quindi una nocività che non è certamente che potrebbe potenzialmente non essere solo legata al corpo umano o degli altri animali o della vegetazione, ma anche alla stessa atmosfera. Noi non possiamo sapere quello che succede, perché non è stato sperimentata questa roba. Cioè, questa roba qui diciamo, chi la propone, ce la propone come un avanzamento tecnologico stratosferico, e io sono perfettamente d'accordo, nel senso che ci sono delle potenzialità gigantesche all'interno di tutto questo. Però no, si trascura il fatto che si stanno inserendo, diciamo, nel nostro ecosistema tutto, sul pianeta Terra, si stanno inserendo troppi elementi artificiali, una creazione artificiale, quindi di onde elettromagnetiche, che non, potrebbero causare altri problemi, anche di natura ambientale. Non è detto quindi è opportuno studiare, è opportuno conoscere questa tecnologia. E non è invece opportuno essere superficiali e passare direttamente alla fase implementativa, come sembra che si stia facendo, perché, e credo ovviamente sull'onda delle richieste, no? Della digitalizzazione di tutto, ok? E quindi una riflessione sicuramente c'è, ma attenzione, noi non vogliamo fare un discorso solamente sulla salute, no? Peraltro l'abbiamo appena sfiorato in questa puntata. C'è un altro discorso importante da fare: l'uso militare che si può diciamo mettere in campo con questa tecnologia. Noi sappiamo che a dicembre c'è stato un incontro dei 28 paesi aderenti alla NATO, o 29 forse, che si sono impegnati per garantire la sicurezza delle nostre comunicazioni, incluso il 5G. Questo è il virgolettato, no? Di quello che è venuto fuori. Ecco, perché la NATO è così interessata a questa questione del 5G, no? Perché appunto c'è un dual use, cioè un uso sia civile che militare. C'è il Defense Science Board che ha pubblicato un Defense Application of 5G Network Technology, okay? un documento. Che praticamente questo Defense Science Board è un comitato, ancora una volta statunitense, quindi comitato federale, forniscono consulenza scientifica al Pentagono, ok? E questi signori in questo documento, il Defense Application of 5G Network Technology, quindi applicazioni per la difesa legate alla tecnologia 5G, dicono questo è il virgolettato: l'emergente tecnologia 5G commercialmente disponibile offre al Dipartimento della Difesa l'opportunità di usufruire a costi minori dei benefici di tale sistema per le proprie esigenze operative. Quindi si sta dicendo che lo useranno perché consente l'abbattimento dei costi, e lo consente proprio in virtù di quel meccanismo che abbiamo visto prima, no? Quello per cui diciamo si creano supporti infrastrutturali on the fly, cioè invece di pagare un collegamento fisso e quindi doverlo dimensionare sul picco, come si dice in ingegneria, no? Cioè dimensionarlo per reggere picchi prevedendoli alti a piacere, si dice sì, io pago solo quello che utilizzo, cioè utilizzo le risorse infrastrutturali, quindi rete, networking, storage, elaborazione, le utilizzo solamente limitatamente a quello che mi serve per realizzare quel tipo di comunicazione per quel tipo di applicazione in quel determinato momento, con quel determinato traffico, con quella determinata esigenza prestazionale. Cioè tutto viene fatto al volo, no? Quindi questo porta a dei benefici sicuramente economici, ma si pensa che questa roba venga utilizzata anche per la sua per i livelli prestazionali che garantisce, e quindi vorrebbero usarla per le armi ipersoniche, missili, anche missili armati con testate nucleari. Queste sono armi che viaggiano con velocità su appunto Mach 5, 5 volte la velocità del suono, no? Per questo si chiamano ipersoniche. E quindi se io devo guidare le traiettorie di questi missili, queste traiettorie sono variabili, devo cambiare rotta in una frazione di secondo, perché magari appunto cambiare rotta per sfuggire agli altri missili intercettori del nemico, no? Quindi devo raccogliere dati, elaborare dati, trasmettere dati in enormi quantità in tempi rapidissimi, perché devo cambiare la traiettoria dei missili. Cioè, ma ci rendiamo conto? Qui stiamo parlando appunto del millisecondo, sotto il millisecondo deve essere tutto questo. E quindi questa roba è ideale per questo tipo di applicazioni. Oppure lo stesso potrebbe essere usato per le difese in caso di attacchi. Cioè, siccome non c'è il tempo per prendere una decisione, se mi attaccano io devo praticamente reagire appunto intercettando questo attacco e affidandomi al 5G e agli automatismi che il 5G mi mette a disposizione, io riesco rapidamente a svegliare le risorse. Svegliatevi, datemi risorse, devo fare elaborazione, le sveglio, le attivo automaticamente, sono pronte e le utilizzo tutto in tempi rapidissimi per effettuare le operazioni che mi servono. Si parla anche di battle network, quindi essendo in grado di collegare contemporaneamente milioni di apparecchiature ricetrasmittenti in un'area circoscritta, Questa tecnologia permetterà ai vari reparti, ai militari, di trasmettere uno all'altro in tempo reale tutto ciò che gli serve per fare le loro operazioni, diciamo, di guerra. Quindi carte, foto, informazioni sull'operazione, tutto quello che serve si può inviare rapidamente appunto verso anche diciamo verso milioni di diversi ricetrasmettenti umani e non umani, no? Che è tutto collegato anche agli oggetti che sarebbero che entrerebbero nel gioco di questa piattaforma del 5G. E poi pensiamo per esempio a servizi segreti, forze speciali, quindi sistemi di controllo e spionaggio che sono molto più efficaci di quelli attuali, sarebbero messi a disposizione di questo tipo di necessità. Si potrebbe accrescere la letalità dei cosiddetti droni killer, no? Questi, oppure dei robot da guerra, quindi quelli che vanno per terra, quelli che vanno che volano, tutte e due. Quindi si potrebbe avere la capacità di individuare, seguire e colpire determinate persone in base magari al riconoscimento facciale oppure ad altre caratteristiche. E quindi qui ci sarebbe tutto il tema dell'intelligenza artificiale che viene inserita all'interno di questo contesto per fare questo tipo di applicazioni. Okay? E quindi sempre tutto in tempo reale, riesco anche a fare riconoscimento, individuazione, seguo, colpisco e elimino. Poi c'è tutto il tema dei cyberattacchi, quindi questa rete, no, essendo così sofisticata, complessa, essendo quindi uno strumento di guerra ad alta tecnologia, diventerà inevitabilmente bersaglio di tanti attacchi cyber. E questi attacchi cyber potrebbero essere appunto attacchi di guerra veri e propri tra nazioni, tra nemici più che altro, che tra nazioni, tra nemici, no? Quindi mettono in atto proprio le loro azioni belliche con gli attacchi a questa rete stessa. Quindi anche qui c'è un grande dubbio su quella che è la sicurezza effettiva di queste reti la sua capacità di resistere a questi attacchi. Quindi per questi motivi nel contesto internazionale e in particolare nell'ambito militare c'è tanta attenzione al 5G, anche perché in questa roba qua c'è di mezzo la Cina. Okay, ha sviluppato una tecnologia avanzatissima, sono probabilmente la potenza più avanzata al mondo sul 5G e hanno già pronto quindi commercialmente dispositivi per realizzare il complesso di operazioni che servono per il 5G, stanno proprio molto molto avanti. E quindi in un discorso diplomatico, quindi di contrasto tra appunto area NATO e area cinese, si ha paura dalle nostre parti, noi siamo dalla parte NATO, no? Si ha paura che questi dispositivi che vengono, diciamo, introdotti nel mercato dai cinesi non siano fidati, non siano trusted, no? Ora è evidente che è un discorso non tecnologico, non commerciale, ma direi appunto un discorso diplomatico, no? Quindi però in effetti potenzialmente è vero che all'interno di questi dispositivi potrebbero essere inserite delle backdoor, cioè dei meccanismi attraverso cui poi si può fare qualcosa di più di quello che si dovrebbe fare, e cioè fornire supporto per la realizzazione di questi servizi e quindi spiare, quindi c'è tutto un tema di spionaggio dietro. Quindi le implicazioni militari sono quindi molto molto sentite a livello internazionale e la paura è che diciamo che non se ne parli abbastanza, perché si parla di più della componente diciamo relativa all'ambito della salute, e che quindi vengano in qualche modo ignorate queste implicazioni. Noi, insomma, volevamo introdurre anche questo tema e lo abbiamo fatto raccogliendo quello che è un articolo molto interessante uscito su questo tema sul Manifesto. Peraltro questo articolo è stato anche tradotto in inglese e diffuso a livello internazionale, perché è fatto molto molto bene, e da lì che abbiamo tirato fuori queste informazioni, quindi relative all'uso militare del 5G. Ecco, io diciamo in qualche modo avrei finito, questo è più o meno quello che mi interessava trasmettere a livello tecnologico, perché appunto sono convinto che questa roba non è roba per specialisti, questa roba non è appunto solo funzionale a qualcos'altro, questa roba è essa stessa materia costituente di un nuovo mondo che si sta creando. Quindi noi siamo tenuti a conoscere, dobbiamo conoscere questa materia, anche se è ostica, se è lontana dal nostro background culturale, siamo chiamati a conoscerla, perché è su questo che si sta giocando e si giocherà sempre di più il destino del pianeta e di tutti e tutte noi. Bene, questo chiude la puntata odierna. Un abbraccio forte a chi ci ha ascoltato dal carcere e ci vediamo lunedì prossimo con un'altra puntata di Entropia Massima.